Buongiorno Palestina. Come ogni mercoledì dalle 19 alle 19.30 trasmettiamo da Radio Wombat. Questa sera abbiamo in studio Cecilia Dalla Negra, che è autrice di un libro che si chiama C'era una volta la Palestina, e che si chiamava Palestina. E abbiamo in studio anche Piero Caramelli, che ha letto questo libro in dettaglio, gli è piaciuto molto, e allora ci dirà perché ci è piaciuto e le domande che lui vorrà fare a Cecilia a proposito di questo libro. Diamo la parola addirittura a Piero per primo, che ci dice perché gli è piaciuto questo libro, e poi andiamo avanti. Grazie Claudio, buonasera a tutti. Sì, stasera abbiamo appunto ospite Cecilia Dalla Negra, che ha scritto il libro, si chiamava Palestina, storia di un popolo dalla Nakba ad oggi. È una giornalista esperta di Palestina. Nel 2018 ha pubblicato Walking the Line, Palestina-Israele lungo il confine che non c'è. Ha contribuito al numero Palestina, Femminismi e Resistenza della rivista femminile DVF, e poi ha codiretto per molto tempo il giornale online Osservatorio Iraq, Medio Oriente e Nord Africa. Quindi ha tutte le caratteristiche per rispondere con dovizia di particolari alle nostre domande. Allora io inizierei, Cecilia, questa chiacchierata con una domanda che sembrerà scontata e facile, che però i nostri ascoltatori penso avranno piacere di sentirne la risposta. Intanto, perché un altro libro sulla Palestina e a chi si rivolge prevalentemente questo libro? In altre parole, che cosa ci dovremmo aspettare leggendo di nuovo un libro sulla Palestina? Buonasera a tutte e a tutti, le ascoltatrici e gli ascoltatori, grazie per avermi invitata oggi qui. È una bellissima domanda, in realtà assolutamente pertinente dal momento in cui sulla questione israelo-palestinese sono stati scritti migliaia di libri, tantissime analisi politiche, tantissimi studi di altissimo livello e di altissima qualità. Questo libro si rivolge in realtà a un pubblico di non addetti ai lavori, nel senso che è una ricostruzione che tenta di essere storico-narrativa, che cerca di rivolgersi a chi non è esperto della questione, si è incuriosito a saperne di più, partendo dal presupposto e dalla convinzione che molto spesso la questione palestinese e la questione israelo-palestinese sono state raccontate come qualcosa di troppo difficile da comprendere, troppo complicato da capire, mentre invece è mia convinzione che non sia così e che sia possibile invece lasciare ad un pubblico anche non esperto comprendere l'esegesi di tutto quello che è accaduto, semplicemente ripercorrendo quelli che sono i fatti storici più importanti che partono dalla Nakba, quindi dal 1948, dalla catastrofe vissuta dal popolo palestinese all'indomani della creazione dello Stato di Israele e che accompagna la storia di questo popolo fino ai giorni nostri. Quindi diciamo che da giornalista ho cercato di affrontare la questione naturalmente con un approfondimento storico, rifacendomi alle moltissime fonti che sono oggi a nostra disposizione, anche grazie al lavoro di molti storici israeliani e palestinesi, ma cercando poi appunto di mantenere una narrazione abbastanza semplice, che non vuole essere banale, però vuole sicuramente riportare un po' l'attenzione sulla dimensione più umana di questo contesto, lasciando un po' da parte le analisi geopolitiche sui grandi sistemi. Ma io Claudio, dirò che pur occupandomi di Palestina ormai da anni, e avendo letto diversi libri sulla Palestina, ho trovato il libro della Cecilia interessantissimo. Mi chiedo anche come mai. Beh, ci ragiono un attimo, poi ve lo dico. Infatti, quello che dici, Claudio, è verissimo. Anzi, a questo proposito, devo dire che alcuni brani del suo libro, soprattutto all'inizio, sembrano veramente brani che esprimono una sensibilità e un'attenzione per i particolari, per le piccole cose, per i piccoli episodi di cui è fatta la storia, poi veramente importanti. Mi ha colpito moltissimo tutta la descrizione, per esempio, della Nakma, i sentimenti degli abitanti che dovevano lasciare la propria terra, che erano costretti a lasciare la propria terra, e ciò che pensavano, ciò che portavano, ciò che lasciavano, soprattutto i particolari, i bambini che piangevano, lasciavano la loro bambola, gli uomini che lasciavano il loro lavoro e quindi il loro passato e anche il loro futuro. Questo mi ha colpito moltissimo, anche il modo di descrivere le varie situazioni. Però Cecilia, tu hai parlato di Nakba. Oggi la Nakba è arrivata nel 1948, ma come mai? Io ho letto del tuo libro che bisogna fare i conti con una rimozione di questo fatto, di questo tremendo catastrofe che ha colpito i palestinesi e il popolo palestinese nel 1948. Che cosa intendi per rimozione? Cosa vuol dire oggi? Beh sì, quello che intendo prima di tutto è che è una storia che è stata negata, che è stata rimossa, di cui non si trova traccia nei libri di storia, nei manuali di storia che sono a nostra disposizione. Il 1948 è una data che è fondativa dell'identità stessa del popolo palestinese, una catastrofe terribile che, ricordiamolo, riguarda in quel momento oltre 700.000 persone, vede la distruzione ad opera delle milizie sioniste di oltre 500 città e villaggi, 700.000 persone che vengono forzatamente espulse da queste città e villaggi e che non potranno mai più fare ritorno. Ma è molto più che un evento storico che ha un inizio e una fine, è un processo, perché la Nakba è solo l'inizio di un processo poi di pulizia etnica che si è protratto nel corso di un secolo, che si reitera in tutte le molteplici forme in cui oggi lo Stato di Israele opprime e controlla il popolo palestinese, ed ha a che fare, a mio avviso, con una rimozione, proprio perché uno dei lati più drammatici di questa storia è aver privato le vittime del diritto di narrarla. La Nakba oggi è un grande tabù, il popolo palestinese è in questa situazione il lato subalterno della storia. Si dice che la storia sia sempre scritta dai vincitori, in questo caso è doppiamente vero, e una potenza egemone come quella israeliana ha riscritto la storia, se noi pensiamo che di quelle centinaia di città e villaggi distrutti oggi non esiste più traccia, sono stati ricostruiti, ci è stata impiantata una popolazione ebraica, sono stati ribattezzati con nuovi nomi, e dunque se non fosse stato per l'importantissimo lavoro di mappatura che è stato operato in questi anni appunto da storici israeliani e palestinesi che coraggiosamente hanno riportato alla luce le atrocità di quel periodo storico, noi oggi non avremmo più alcuna traccia di un passato che è stato. E questo ha delle ripercussioni fortissime anche oggi sull'identità stessa collettiva palestinese, perché appunto è una storia che non ha diritto di essere raccontata. Io sono d'accordissimo, però credo, e molti sono d'accordo con me, molte persone si occupano di Palestina, che in fondo la questione palestinese è, diciamo, dal punto di vista giuridico, storico e morale, una questione semplicissima, perché non è contestabile il fatto che un popolo ha diritto alla sua autodeterminazione e non è nemmeno contestabile il fatto che Israele invece si oppone con tutte le sue forze, specialmente questi ultimi tempi dopo l'approvazione della famosa legge, no, sullo Stato-Nazione popolo ebraico, a che questo non avvenga. Mi chiedo, ma allora l'Europa, il mondo, l'opinione pubblica, come mai non avvertono questo semplice fatto, no? La questione palestinese sembra irrisolvibile, sembra quasi che la colpa di tutto sia delle vittime e non dei carnefici, cioè si è invertito diciamo il ruolo di questi due popoli. Quindi, cosa ne pensi te, che cosa ne pensi? Ti volevo chiedere te, di questo fatto, che cosa ne dici? Sì, sono naturalmente d'accordo. Il grande intellettuale palestinese Edward Said chiamava la condizione del suo popolo la tragedia di essere vittima delle vittime. È vero che se noi facciamo riferimento, ad esempio, al quadro della legalità internazionale, del rispetto dei diritti umani, delle innumerevoli risoluzioni delle Nazioni Unite che sono state emanate nel corso di questi 70 anni in difesa dei diritti del popolo palestinese, dovrebbe essere assolutamente evidente da che parte sia necessario schierarsi, che poi alla parte appunto della giustizia, del diritto all'autodeterminazione, che vale per ogni popolo in ogni luogo del mondo. Vale un po' meno purtroppo per il popolo palestinese, perché è appunto vittima di un progetto di lunghissimo corso, che è il progetto sionista di costruzione dello Stato ebraico in Palestina, che è, ricordiamolo, un progetto di insediamento coloniale sin dagli albori, sin dai primi anni del Novecento, e per innumerevoli ragioni che non. Insomma, servirebbero diverse ore per enumerare, è riuscito, diciamo, nel corso di questi anni ad imporre la propria voce, la propria propaganda, la propria narrazione anche all'opinione pubblica mondiale, anche facendo, delle pressioni politiche molto forti sull'Europa, sui governi occidentali, che pure hanno un'enorme responsabilità, per l'evolversi della situazione. Basti pensare che l'avvio del colonialismo di insediamento ebraico in Palestina avviene con il benestare della Gran Bretagna, che all'epoca, agli inizi del Novecento, è la potenza mandataria che controlla la Palestina storica. E anche a causa della complicità, senza dubbio evidente, a mio avviso, di tanta parte della stampa internazionale che in questi anni ha teso a dipingere i palestinesi sempre come terroristi, senza andare mai a spiegare le ragioni storiche che si celavano anche dietro le grandi sollevazioni popolari a cui abbiamo assistito nel corso della storia recente. Quindi io credo che alla fine un libro di storia, come tenda, cerca di essere il mio, senza la pretesa naturalmente di voler essere una storica, ma che insomma riannodi un pochino i fili della memoria, riannodi il nastro, torni indietro a quelle che sono state le origini storiche di questa che è forse la più grande ingiustizia ancora in essere nel mondo contemporaneo, sia utile per comprendere che cosa poi oggi ha portato la situazione a degenerare fino allo stato in cui si trova. Ecco, questo è tu mi rammenti che, dunque, il tuo libro si legge benissimo e si vede che è scritto da una giornalista e non da una storica. E non so se ti faccio un complimento o un insulto adesso, ma comunque, quello che io ho trovato nel tuo libro sono cose nuove che non avevo visto in libri precedenti. E questo mi rammenta il fatto che vengono continuamente desecretati nuovi documenti e si hanno continuamente nuove aggiunte e nuove cose che si vengono a sapere su come si è svolta la storia. Io oggi è mercoledì 18, ho visto no, 17, scusate, ho visto in televisione una narrazione siccome ci sono le elezioni oggi in Israele, allora parlavano di Israele e di come Israele è nato e le solite balle. La prima cosa che ha detto è che quando ci fu la partizione del 1947 da parte delle Nazioni Unite, Israele, cioè il mondo ebraico, cioè gli sionisti, tesero la mano ai palestinesi. Ma dico, hanno fatto delle stragi e in televisione ti dicono che hanno teso la mano. Accidenti, che mano gli hanno tesa? Allora, un'altra cosa, scusa, prima che mi scordo, è che i documenti vengono attualmente nascosti. Cioè, mi risulta che c'è un ufficio apposta del Ministero dell'Interno israeliano che ha il compito di far sparire documenti importanti. Ecco, su questo vorrei magari che, se tu ne sai qualche cosa di più su queste vicende, sarebbe interessante. Sì, questo esattamente fa parte di quella narrazione che io definisco deviante, che è stata data in questi anni, che è stata costruita nel corso dei decenni, e che poi è quella che viene veicolata all'opinione pubblica, per cui poi è semplice comprendere perché le persone, si facciano un'idea di un certo tipo rispetto alla questione israelo-palestinese. L'episodio a cui fai menzione tu è una notizia di pochi giorni fa che è stata resa nota da un giornale che, insomma, consiglio alle ascoltatrici e agli ascoltatori di consultare per saperne di più di quello che accade in Palestina, che è Nana News, che è un ottimo giornale online di approfondimento che ha rivelato appunto l'esistenza di una agenzia specifica del Ministero dei Servizi Segreti, diciamo, israeliani, preposta a secretare e far sparire tutta una serie di documenti storici relativi alla Nakba, che mettono nero su bianco quanto poi le operazioni appunto di pulizia etnica, di distruzione dei villaggi e di insediamento coloniale siano state pianificate nel corso degli anni. Realtà che poi sono state portate alla luce, insisto molto su questo anche per il lavoro coraggiosissimo di una nuova generazione di storici israeliani che non a caso insomma, affrontano diverse sfide all'interno di Israele proprio per il loro posizionamento, come Ilan Pappé, autore di un libro fondamentale, quale è La pulizia etnica della Palestina, che proprio per aver avuto accesso agli archivi storici è riuscito insomma, a portare alla luce una serie di evidenze storiche, di fatti, e dunque quanto poi appunto la pulizia etnica della Palestina sia stata un'operazione pianificata a tavolino e non certo priva di conseguenze atroci, di crimini contro l'umanità e di operazioni belliche ai danni di una popolazione sostanzialmente inerme. Però questa è una parte di storia che non deve essere raccontata perché la narrazione intorno a Israele deve essere indirizzata in modo molto, molto preciso. E quindi insomma, no, non stupisce che purtroppo anche tanta parte di quella documentazione che ci sarebbe oggi fondamentale per ricostruire certe cose sia in qualche modo omessa e nascosta dalle autorità israeliane. Ecco, ma come ti dicevo prima, Ilan Pappé si legge con difficoltà, a te ti si legge invece molto bene. Non è per farti un complimento, eh? Infatti, Cecilia nel suo libro si definisce una storica dell'istante. La storia, cioè giornalista, storica dell'istante, cioè racconta le cose e le racconta in maniera distensiva, in maniera semplice, in modo che tutti possano accedere a delle e capire anche delle situazioni, delle notizie che semplici non lo sono. A questo proposito ti vorrei chiedere, dal tuo libro mi sembra di aver capito che l'unico diritto e l'unico titolo giuridico che gli israeliani hanno per continuare nella loro attività politica, nelle loro anche iniziative politiche di apartheid e di pulizia etnica, è quello dell'uso della forza, perché altro titolo giuridico non l'hanno. Mi sembra se noi andiamo a vedere indietro nel tempo, prima della Nakba, e quindi prima ancora della nascita dello Stato di Israele, dal tuo libro si vede che ci sono stati tantissimi episodi di violenza, anche ad opera di gruppi terroristici come Gruppo Stern, Irgun, poi Haganah, eccetera, peraltro comandati da personaggi che poi sono divenuti anche primi ministri costituendo del futuro Stato di Israele, che hanno distrutto completamente dei villaggi, hanno fatto delle cose orribili. Basta pensare, leggendo il tuo libro, vengono i brividi soltanto a leggere quello che è successo a Deir Yassin, per esempio, prima della Nakba, prima del 47. Tutto questo è nato dopo Balfour. Quindi la dichiarazione di Balfour non è stata altro che una dichiarazione che, mi sembra di aver capito, ti chiedo conferma, per cui un impero, un paese coloniale, un impero coloniale come quello inglese ha dato, ha regalato ancora a nessuno, cioè non ad un altro stato, ma ad un gruppo etnico, diciamo, un paese, il dominio su un paese che ancora non esisteva, insomma. Ecco, quindi mi sembra sia nato tutto di lì, no? Tant'è vero che poi quando c'è stato tutto questo è avvenuto molto prima della Shoah, e quindi non si può. La Shoah poi, se mi sembra di aver capito, mi sembra che anche tu lo sostenga, è stata poi strumentalizzata abilmente per far pensare, no, a interventi antisemiti, tutti quelli che invece la pensavano in modo contrario. Sei d'accordo su questa analisi? Sì, è una ricostruzione puntualissima. In realtà la definizione di giornalismo come storia dell'istante mi piacerebbe tanto che fosse mia, ma è di Albert Camus, che richiamava con questa definizione al senso di responsabilità che ha il giornalista nel narrare con onestà ciò che vede, perché la cronaca giornalistica di oggi può diventare la storia di domani e dunque raccontare ciò che noi vediamo con onestà e con senso di responsabilità nei confronti della verità dovrebbe essere un dovere che ogni buon giornalista si pone come principio del proprio operare. La ricostruzione che facevi, sì, è assolutamente a mio avviso condivisibile. L'uso della forza è stato assolutamente uno degli strumenti che sono stati utilizzati da Israele, ancor prima appunto dalle milizie sioniste, quindi da tutto ciò che è l'apparato pre-statale. Del costituendo Stato di Israele e anche aggiungerei l'impunità, perché se oggi Israele può continuare a violare sistematicamente i diritti umani del popolo palestinese, lo fa dal 48 ad oggi, sono oltre 70 anni di continue violazioni, è anche perché c'è una comunità internazionale che non richiama Israele al rispetto dei propri doveri, anche come potenza occupante. Scusa se ti interrompo, ma mi sembra, tu dici l'impunità, ma come mai di fronte a un'evidenza che a noi sembra forse così evidente, appunto, scusa il gioco di parole, di fronte a un'evidenza del genere, ancora Israele gode di questa impunità, malgrado tutto ciò che noi sentiamo, malgrado le dichiarazioni ultime di Netanyahu che dice si vuole annettere anche tutta la Valle del Giordano, malgrado tutto ciò, Israele continua a godere di un'impunità di cui colpevole è il mondo occidentale, perché si dovrebbe mettere in atto iniziative diverse da quelle. Come mai, secondo te, questo? Intanto perché Israele è una potenza politica, è una potenza militare ed è un alleato fondamentale, strategico dell'Occidente. Tu prima facevi menzione della dichiarazione Balfour, è probabilmente l'origine di tutta la questione, o almeno io così la vedo anche appunto in base a ricostruzioni storiche di ben altro livello rispetto alle mie. Per una ragione molto semplice, se voi pensate che Theodor Herzl, che è considerato il padre del sionismo politico già alla fine dell'Ottocento, nel rivolgersi alle potenze occidentali, e in particolare alla Gran Bretagna, che appunto all'epoca era la potenza mandataria, che aveva il controllo della Palestina storica, come dire, per orare la sua causa, non esita a definire il sionismo e dunque l'immigrazione ebraica in Palestina come diciamo un'avanguardia capace di creare un baluardo occidentale in Medio Oriente contro la barbarie. Quindi si inserisce a pieno titolo all'interno di quelli che erano i movimenti coloniali dell'epoca, portando avanti questa retorica della civiltà contro la barbarie. Per le potenze occidentali in quel momento è strategico immaginare di favorire un'immigrazione ebraica di stampo chiaramente europeo in un territorio strategicamente importante come il Medio Oriente. Controllare la Palestina vuol dire controllare tutta la regione, l'accesso al canale di Suez, tutta una serie di diciamo, posizionamenti geostrategici fondamentali. Io penso che sia ancora oggi così, che considerare Israele, che si autodefinisce l'unica democrazia del Medio Oriente, poi noi sappiamo che non è così perché una democrazia che si autodefinisce ebraica, per esempio, è un problema perché è più vicina a un'etnocrazia Sì, che non appunto. a una democrazia che viola i diritti dei cittadini israeliani di origine palestinese. Eccetera, eccetera, eccetera. Eppure, io credo che ancora oggi Israele sia considerato un alleato fondamentale, e quindi goda, diciamo, di un'impunità che prima o poi dovrà avere fine, ma nel frattempo la politica del fatto compiuto, condotta dai leader sionisti, dai primi anni del Novecento sino ad oggi, è stata quella del fatto compiuto. Dunque, finché non ci fermano, conquistiamo quanta più terra possibile. Credo che le dichiarazioni recenti di Netanyahu sull'annessione della Valle del Giordano vadano esattamente in questo senso. Ora, come scadenze immediate e come fatti che stanno per succedere, cioè le elezioni oggi che avvengono oggi in Israele, e si saprà domani, mercoledì, ora no, adesso sto facendo un po' di confusione, ma insomma, comunque, i risultati elettorali in Israele, questa è una scadenza. L'altra che è molto importante per tutto il volontariato internazionale, è la raccolta delle olive. Ecco, tu adesso hai delle scadenze, hai delle, tu che programmi hai? Ecco, raccontaci un po' di te. Che cosa, scrivi un nuovo libro? Tu lavori per Nena News, che citavi prima. Nena News è un'agenzia di Michele Giorgio che scrive sul Manifesto e scrive su questa sua agenzia dove fornisce notizie di prima mano su quello che avviene in Palestina. Ecco, parlaci delle tue prospettive invece. No, io non lavoro per Nana News, ci lavorano bravissimi colleghi e colleghe che si occupano della questione e che fanno appunto una narrazione diversa dalla mia, che è molto più sulla stringente attualità ed è una fonte di informazione per tutti noi assolutamente fondamentale. Ricordavi due sì, appuntamenti importanti, le elezioni israeliane che purtroppo tendono drammaticamente a destra. E che non promettono assolutamente nulla di buono rispetto a quella che sarà, insomma, la relazione con la controparte palestinese, la raccolta delle olive. Quest'anno, dopo molto tempo, finalmente i comitati di resistenza popolare palestinese stanno organizzando una nuova conferenza annuale. Era una cosa che non succedeva da qualche anno ed è, molto importante anche per la solidarietà internazionale seguire questo importante appuntamento. Io per il momento porto a spasso per l'Italia questo libro che è uscito nel 2018 e ancora un po' di vita spero che l'abbia, poi per il resto mi sto concentrando sulla mia altra grande passione che è il femminismo palestinese, quindi mi auguro che la mia prossima pubblicazione potrà essere dedicata alla straordinaria storia e attualità della politica delle donne in Palestina, che è qualcosa da cui ho imparato moltissimo. Sì, purtroppo siamo quasi in chiusura, vero Claudio? Mi pare che dobbiamo affrettarci a concludere. E io, per finire, ti chiederei una previsione, Cecilia. Non so se tu, dalla tua, tu hai insomma, anche esperienza, hai conosciuto personaggi importanti, conosci anche dissidenti, quelli che non sono d'accordo, no? A cominciare appunto da Papè che tu hai citato. Gideon Levi, Halper e così via, leggendo anche poi delle dichiarazioni come di Alice Rothschild, che ha fatto una dichiarazione in cui lei si dichiara ormai pentita delle sue prime simpatie per i sionisti. Quando arrivarono, ti chiedo: ma questa Palestina si chiamava Palestina in futuro? Continuerà a chiamarsi Palestina oppure la Palestina cambierà nome anch'essa? Secondo te, cosa può succedere? Difficile dirlo, ma io sarò l'ultima delle ottimiste, ma resto profondamente convinta che continuerà comunque a chiamarsi Palestina, almeno nella memoria dei palestinesi, nella loro resistenza, in quello che loro chiamano il Sumud, quindi la capacità di rimanere attaccati alla loro terra, proprio come le radici degli alberi. E penso che noi come persone che comunque sono affezionate a quella terra e a quel popolo, non possiamo permettercelo il pessimismo, nonostante la situazione politica sembri a volte essere assolutamente disperante. Alcuni dissidenti israeliani che ho avuto la fortuna di conoscere, come Warshawski, che è uno dei più importanti attivisti di sinistra israeliani, una volta mi ha detto: tutto ha avuto fine, persino l'impero romano. Non si capisce perché il colonialismo israeliano non dovrebbe averla. E a me piace pensare che sia così. Mi piace pensarlo soprattutto quando vedo le nuove generazioni di giovani donne e uomini israeliani che saranno anche una minoranza, ma che rifiutano di prestare servizio nell'esercito, prendono coraggiosamente posizione perché non vogliono utilizzare i propri corpi per opprimere fratelli e sorelle dall'altra parte del muro. Quindi io ho grande speranza nelle nuove generazioni e sono convinta che non possiamo perderla, che dobbiamo continuare a difendere poi una causa di giustizia. E noi siamo qui con te e continueremo a lottare e a presentare il tuo libro, perché con quello si potrà capire molte cose. A te, Claudio. Allora, ringraziamo gli ascoltatori, anche coloro che si fossero messi solamente in questo istante in ascolto, e ringraziamo Cecilia Dalla Negra e ricordiamo il titolo del suo libro. Si chiamava Palestina. È un libro per tutti e da cui tutti imparano qualche cosa. Grazie per l'ascolto e a mercoledì prossimo. أرضي وبلادي قلبي وفؤادي منها المجد منها المجد منها المجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبية في ظلكم قابوس أرضي وبلادي قلبي وفؤادي منها المجد منها المجد منها المجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبية في ظلكم أفديكي بروحي وأخيط جروحي من نور الشمس نور الشمس نور الشمس شمس شمس شمسك يا وطني تشرق في بدني وتضيء بي الشمس.